È un festival che appunto ha una storia a Bologna, dal 2021 si svolge sia a Bologna che a Modena ed è caratterizzato dall'approfondimento sul cinema d'animazione, gli effetti visivi e tutto quello che è comunque digitale all'interno dei film. Ci occupiamo di cinema d'animazione perché riteniamo che il cinema d'animazione, come dice Guillermo del Toro, è cinema vero e non cinema di serie B, e non è un cinema per bambini, quindi non è un genere, ma è un insieme di tecniche, un insieme di tecniche per raccontare mondi e storie molto interessanti. C'è un tema quest'anno, un filo conduttore che collega tutti i vari eventi? Ci sono tanti temi quest'anno. Il primo che trovate anche sulle locandine, sul programma, è Be Kind Remake, un omaggio al film di Gondry, Be Kind Rewind, che quest'anno compie 15 anni. Proietteremo il suo film in lingua originale con i sottotitoli e proietteremo anche il documentario di Nemeta, che è stato al Festival di Venezia, con Michel Gondry, Do It Yourself, che parla proprio di questa filosofia del fatto a mano, fatto da solo, fatto con pochi mezzi, remake. E allora al festival ci sarà anche una postazione per tutti quelli che vogliono creare il loro piccolo film amatoriale, possono farlo. Il festival quest'anno a Bologna si svolge completamente al Dumbo, sia sala cinematografica che sale proiezioni, workshop, incontri e anche lo spazio dedicato proprio alla realtà virtuale e alla realtà aumentata. E tra i tantissimi appuntamenti di quest'anno c'è anche ad esempio la premiere del film del lungometraggio di Bill Plimpton. Ci potrebbe spiegare, presentare la sua figura e anche parlarci, anticiparci degli eventi in cui sarà coinvolto? Sì, Bill Plimpton sarà coinvolto in tre modi: con la presentazione mondiale del suo film Slide. Lui è un autore americano che realizza tutto quanto a mano, disegna ogni fotogramma a mano e lo anima da solo. Per questo gli ci vogliono almeno 5-6 anni per produrre il suo film, gli ci vuole un grande contributo anche da parte delle persone, tant'è che questo film è stato sostenuto anche tramite Kickstarter e viene definito l'ultimo, speriamo non ultimo, animatore indipendente americano. Ha rifiutato collaborazioni con Disney, Pixar, DreamWorks, i più grandi studi di animazione americani. Dopo, diciamo, questa presentazione, che è in apertura il 15 novembre del festival, ci sarà un momento di disegni liberi e firma copie il giovedì 16, e invece venerdì 17 ci sarà proprio la sua masterclass in cui racconta come ha realizzato il suo film. Spazio invece verrà dato anche al Portogallo quest'anno. Volevo chiedere come mai questa scelta. La scelta cade sul Portogallo per due motivi fondamentali. Il primo, che nel 1923 è stato realizzato il primo corto portoghese, quindi festeggiamo i 100 anni dell'animazione portoghese insieme anche all'ambasciata del Portogallo in Italia. Il secondo motivo è più creativo ed è relativo al fatto che esiste una new wave di animatori portoghesi contemporanei molto interessanti, giovanissimi, e vogliamo dare testimonianza del loro lavoro, sia con la loro presenza e con la presenza delle loro opere. Verrà data anche attenzione al mondo della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale. Quali sono gli incontri più interessanti in questo ambito tra Bologna e anche Modena? Allora, a Bologna sicuramente c'è uno spazio, che ci sarà anche a Modena, dedicato appunto alla visione di queste opere del concorso con i caschi, ma a Bologna ci sono anche due appuntamenti importanti. Il primo, che è una sorta di panel di apertura del festival, Artificial Job, che indaga proprio l'intelligenza artificiale relativamente anche ai mestieri e quindi dove, no, va a toccare magari o un problema oppure può creare un'opportunità per il lavoro di creativi, grafici, animatori. Ovviamente parliamo sempre del nostro ambito. E dall'altra un workshop al pomeriggio, sempre di mercoledì 15, dedicato proprio a Stable Diffusion, quindi a capire come funziona questo particolare software e come creare queste opere. Ultimo link, ma importante per noi, è l'immagine del festival, che quest'anno abbiamo affidato proprio a José Hernández, che è un fotografo e artista che da anni sperimenta anche con le nuove tecnologie e da qualche mese sperimenta anche con Midjourney, che è un altro software sempre dell'intelligenza artificiale, con il quale ha creato un manifesto, il manifesto del festival, e a cui, diciamo, dedichiamo proprio un'intelligenza l'intera mostra durante i 5 giorni di Bologna. E ci sarà poi anche una premiazione di vari cortometraggi e lungometraggi, giusto? Il festival è un festival cinematografico tout court, quindi ha sicuramente il suo momento ufficiale, che è il concorso lungometraggi internazionali, che tiene 12 lungometraggi, anime ma non solo, e il concorso cortometraggi che ospita quest'anno 80 autori e 80 lavori. Il focus, diciamo, della premiazione sarà sabato 18 novembre all'interno di una serata speciale che si chiama Aperitun, aperitivo con gli animatori, e quindi una serata molto informale in cui chiunque può partecipare, perché quest'anno il festival è completamente gratuito tranne alcuni workshop e la masterclass, ma per tutto il resto è assolutamente gratuito.